America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. Hello Carson, let's go to your room. You don't have to do this. I'm a day trader. I could just go home. You could. Make it worth your while. Take you to an ATM. There's 14 grand in it. Everybody just walks away. E quella che avete sentito è una scena di No Country for Old Men. Il Texas non è il paese, la regione giusta per le persone anziane, per i vecchi. È un film dei fratelli Coen che ha vinto il premio per miglior film. Perché vi parlo del Texas? Beh, perché c'è un movimento che reclama l'autonomia del Texas, anzi l'indipendenza del Texas, e che dice che il Texas non si è mai unito legalmente agli Stati Uniti d'America. In effetti la storia del Texas è lunghissima, ma il Texas si unisce, pensate, agli Stati Uniti come 28esimo stato soltanto nel 1845. Però tra il 1836 e il 1845, in effetti, il Texas è stata una repubblica indipendente. Il New York Times se ne è occupato un paio di giorni fa perché c'è stata un'irruzione di agenti federali della polizia in una sala dove erano riuniti questi signori che si definiscono i cittadini del Texas e che sono strutturati in una repubblica, sono strutturati con un congresso, con un sistema giudiziario. E ho con me ai microfoni di America 24 il presidente del Texas, John Chernicky. Mr. Chernicky. Yes, sir. Signor Chernicky, ecco, dovrei dire forse signor presidente. Well, that's va bene, fine. Okay. Okay, so Mr. President, Mr. Chernicky, c'è stato uno scontro con la polizia, sono intervenuti in una vostra riunione, è stato un intervento legale o illegale? Beh, la nostra opinione è che non sia stato legale. Avevano un mandato d'arresto per due persone, ma si è trasformato in un mandato coperta che ha coinvolto tutti. Hanno confiscato laptop, cellulari, videocamere e qualunque altro strumento di registrazione o tecnologico a chiunque si trovasse lì. Perché credete di essere una repubblica autonoma e indipendente? Perché lo siamo. Il Texas ha dichiarato la propria indipendenza dal Messico nel 1836. In quel momento siamo diventati una repubblica indipendente, riconosciuta dalle altre nazioni del mondo, fino al 1845, quando gli Stati Uniti hanno annesso il Texas con una serie di violazioni e adesioni non conformi al diritto internazionale. Ad esempio, non ci sono provvedimenti o riferimenti nella Costituzione del Texas o in quella degli Stati Uniti che consenta ad un paese di annettere un altro paese. Ma è stato fatto. Ok, ecco, devo dire, da quel che ricordo, però, il Texas chiese di far parte degli States. Non è che capitò così all'improvviso. Ci furono procedure legali non dissimili a quelle eseguite dagli altri Stati e poi il Texas a un certo punto è stato accettato e è diventato parte a tutti gli effetti degli Stati Uniti d'America. Sì, con irregolarità e brogli elettorali, quel presunto voto per l'annessione ha mostrato che il numero dei votanti era di 3 volte superiore a quello dei cittadini del Texas. A me sembra che qualsiasi cosa di questa importanza andasse verificata più volte, ma si prese per buono il primo risultato. Ecco, scusi, non per provocare o per fare l'avvocato del diavolo, però lei rappresenta una repubblica, diciamo, voi considerate di essere una repubblica, che è formata soltanto da una minoranza, anzi da una minuscola minoranza di residenti del Texas, perché quelli che votano sono soltanto i vostri cittadini della Repubblica del Texas, e quindi ci credo che vincete. Qual è la vostra credibilità? Scusi, perché... Beh, noi non abbiamo mai creduto in questa annessione e nella sua legalità. Abbiamo il diritto di autodeterminazione, riconosciuto da vari tribunali internazionali, affermato nel Trattato internazionale sui diritti civili e politici dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, di cui anche gli Stati Uniti sono firmatari. E abbiamo ogni intenzione di riprenderci la nostra terra texana dagli Stati Uniti d'America. Non solo. Come sa, dalla storia fino al 1850 il Texas era enorme, includeva quasi 2/3 del Nuovo Messico, buona parte dell'Oklahoma, quasi metà del Colorado, una parte del sud-est del Kansas e 2 contee del Wyoming. Ebbene, tutti questi territori saranno benvenuti nella nuova Repubblica del Texas. We have every intention of getting our country back from the United States. Bene, ecco, ci faccia capire come intendete procedere dal punto di vista legale. What we are doing is taking our case through the international system. Useremo il sistema internazionale, andremo alla Corte dell'AIA dove ci sono 120 tribunali e siamo molto vicini a identificare quello giusto. La nostra base giuridica sta nei trattati firmati anche dagli Stati Uniti, che danno ai popoli il diritto di autodeterminazione. Da voi in Europa, ad esempio, la Catalogna sta cercando di ottenere l'indipendenza dalla Spagna. Le repubbliche baltiche si sono staccate dall'Unione Sovietica usando sostanzialmente gli stessi appigli legali. E le do una notizia, anche le Hawaii stanno cercando di ottenere la loro indipendenza dagli Stati Uniti. Texas e Hawaii sono gli unici stati, diciamo, degli attuali Stati Uniti a poter pretendere la secessione. That have the lawful authority to do that without secession. E se questo non funziona, insomma, gli Stati Uniti non riconoscono la Corte dell'AIA e quindi diranno di no anche in caso di successo. Allora che farete? Prenderete pistole, fucili come ai vecchi tempi dei cowboy, dei film di John Wayne ambientati spesso in Texas, devo dire. No, we are not doing that. No, non è la nostra idea. C'è stato un gruppo della Repubblica del Texas che a metà degli anni 90 ebbe un confronto a fuoco, ma noi non siamo violenti. Siamo convinti di poter ottenere il nostro obiettivo perseguendo le giuste vie legali. Presidente Jarnicki, un'ultima domanda. Quando lei sarà formalmente presidente del Texas, verrà a farci visita in Italia, diciamo in visita ufficiale dal nostro presidente del Consiglio, magari un bilaterale anche col Papa? Yes, we will. We will open up. Certo, ci apriremo alle altre nazioni, agli scambi commerciali, eviteremo alleanze pericolose, ma vogliamo stabilire dei rapporti di amicizia con ogni altro governo del mondo. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vive più tempi difficili, resta sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, abbiamo parlato di Texas, abbiamo parlato di questo straordinario stato, il Lone Star State, dunque, beh, è di George Stratton una canzone country western, All My Exes Live in Texas. And Texas is a place I'd dearly love to be. But all my exes live in Texas, and that's why I hang my hat in Tennessee. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going! America 24.